Diventai partigiano, un semplice ortolano che prende il mitra in mano. Bevevo la rugiada e mi sentivo un italiano. 25 aprile, il popolo è sovrano. Ora sono qua avvolto in un asciugamano. Anziano, casa di riposo, menù vegetariano. Un giorno dopo l'altro sono sempre sul divano. Guarderò le foto in bianco e nero sul ripiano di quando ero giovane e fumavo il toscano. In questa invece guarda, ho preso un fagiano. In questa c'è mia moglie che raccoglie del grano. Sai, c'erano i campi a Milano. Ora sono solo e ho quasi 90 anni. Me la faccio addosso, mi sporco tutti i panni. Nessuno mi saluta da quasi 4 anni. Eppure ho nipote di circa 16 anni. Non viene proprio mai a trovarmi. Eppure combattei anche per lui. Per lui presi le armi, per il suo futuro, perché fosse amato, anche se non era ancora nato. Io alla scuola non ci sono andato, ma lui che cosa hanno insegnato? Guardo la sua foto, prima comunione, è Giancarlo il suo nome. Il pin della sim nel ciel della team, iPod, Fat Boys, Slim, su MySpace, click il link di Miss Pink, con le tipe sono troppo un king, su Facebook c'è il mio team, io mi taggo Jim, Giancarlo, il mio nome è Pocoin, fa paura tipo The Ring, ascoltami, sing, sing, yeah. Sono il tipo giusto, ci sto dentro, ma sono fuori come un balcone. L'altro giorno in chat ho messo una foto di me col cannone. Me ne sto in tranzolla, faccio tire molla tra Xbox, MSN, poi su Sky CNN. Con il mezzo faccio penne, ne esco indenne, scavo l'antenne dalle car, parcheggia tra le spar. Ce ne andiamo al bar o magari al Mac, Big Mac menu, è un fazzolo che devo fare ciù, sono troppo giù e tu fai su. Andiamo a fare l'interrail quest'estate con la fra, con la da, con la ba. Chi lo sa, forse me la dà, chi la fra, no la ba, quella con la ca. Yeah. Con la scritta Rich sul culo, maglietta della Rams 23, vai sicuro. Su Google ho trovato un sito troppo scrauso d'applauso che spacca. Con le tipe nude con solo la cravatta. Che matta la mia amica Alessia, andata in fissa su un tipo con la Nissan che cerca solo rissa, uomo. Oggi sono troppo peso, ho il tema in classe, il prof è leso. Ci ha chiesto di parlare della guerra dei partigiani. Ma a me che cazzo me ne frega, io piego i fogli e faccio gli aeroplani. Non so cosa scrivere, non c'ho idee, non c'ho voglia. Vado giù nei bagni e mi fumo una paglia. Ho il video sul ciel di una tipa che si spoglia e non sbaglia. Più la guardo più m'abbaglia, che voglia. Torna in classe, Giancarlo, vieni a fare il tema. Minchia che palla, andiamo. Cosa vuoi che cambi? Tanto c'ho il debito in italiano. Ora sono io in una casa di riposo e non ci sono più partigiani. Fuori c'è la guerra, una nuova dittatura, ma nessuno crede più e non ci sono più partigiani. Pronti a liberarci, 2089 e non ci sono più partigiani. Signor Giancarlo, come si sente oggi? Meglio, gioco un po' alla PlayStation, non ho voglia di pensare alla guerra. Game over, man. Game over, man. Game over, man. Game over, man.